il re Assuero stabilì un'imposta sul paese e sulle isole del mare. E tutti gli atti di forza e di potenza e i dettagli della grandezza di Mardocheo, che il re esaltò, non sono forse scritti nel libro delle cronache dei re di Media e di Persia? Infatti, l'ebreo Mardocheo era il secondo dopo il re Assuero ed era grande in mezzo agli ebrei, ben voluto dalla maggioranza dei suoi fratelli. Egli cercava il bene del suo popolo e aveva parole di pace per tutti quelli della sua stirpe. Mardocheo disse: «Tutte queste cose sono state fatte da Dio. Infatti mi ricordo del sogno che ebbi riguardo a queste cose. Tutto si è avverato. C'era la piccola fontana che divenne un fiume, e poi c'era la luce e il sole e molta acqua. Il fiume è Ester, che il re ha sposato e creato regina. I due dragoni siamo io e Aman. Le nazioni sono quelle che si sono coalizzate per la distruzione degli ebrei. Il mio popolo è quello di Israele, che ha gridato a Dio ed è stato salvato. Sì, il Signore ha liberato il suo popolo e ci ha riscattato da tutte le calamità, operando segni e prodigi così grandi che non sono stati mai fatti in mezzo ai popoli. Egli ha stabilito due sorti, una per il popolo di Dio e una per tutti i popoli. Queste due sorti si realizzarono in un momento stabilito e in un giorno di giudizio fissato da Dio per tutti i popoli. Queste due sorti si realizzarono in un momento stabilito e in un giorno di giudizio fissato da Dio per tutti i popoli. Dio si è ricordato del suo popolo e ha reso giustizia alla sua eredità. Gli ebrei osserveranno questi giorni nel mese di Adar, il 14 e il 15 del mese, con riunioni, gioia e allegria al cospetto di Dio, per tutte le generazioni, in eterno, in mezzo al suo popolo Israele. Nell'anno quarto del regno di Tolomeo e Cleopatra, Dositeo, che si dice essere sacerdote e levita, e Tolomeo, suo figlio, portarono la lettera pubblicata riguardo alla festa di Purim. Essi affermavano essere quella la vera, ed essere stata interpretata da Lisimaco, figlio di Tolomeo, residente a Gerusalemme.